Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Stefano Piedimonte, autore del romanzo Nel nome dello zio, pubblicato da Guanda. Si tratta di un'opera prima che personalmente ho trovato molto divertente, anche se si ride in modo amaro di questo libro, e poi spiegheremo bene il perché. Un libro che tra l'altro ha avuto delle recensioni molto positive, è stato accolto molto bene sia dalla critica che dal pubblico. Dicevamo che si ride in modo amaro perché si parla di Camorra in modo ironico e divertente. Il protagonista è appunto lo zio del titolo, che è un boss della camorra dei quartieri spagnoli di Napoli, e poi ci sono ovviamente i suoi fedelissimi, sono cinque mostri, così vengono definiti, e poi c'è anche un ragazzo, Anthony, che va al Grande Fratello. Come si mischiano insieme questi personaggi? Adesso lo scopriamo con Stefano Piedimonte alla sua appunto opera prima. Stefano, innanzitutto, perché hai scelto di parlare di camorra in modo ironico? Ho scelto di parlare della camorra in questo modo perché mi sembrava il modo migliore per parlare di certe cose, il più adatto soprattutto, quello che più si presta a raccontare alcuni personaggi, alcune situazioni che sono paradossali già di per sé. Insomma, noi sappiamo che la camorra ci offre tanti di questi personaggi, di questi freak, dai caratteri, insomma, come se fossero dei mostri in un museo delle cere. Quindi, insomma, lo sforzo di un autore per trasportare poi tutta questa materia nella materia letteraria non deve essere neanche troppo grande. Insomma, è abbastanza, insomma, c'è molta facile. Verità in questo romanzo, sì, purtroppo. Sì, ecco, bisogna stare attenti a non lasciare nulla fuori, non a portare altra roba dentro, ma a non filtrare troppo, perché se già li si prende pari pari e li si mette in un libro, insomma, risultano dei grossi personaggi già di per sé. Ecco, tu dicevi appunto che c'è molta verità in questo libro, anche perché, lo ricordiamo, tu sei un giornalista del Corriere del Mezzogiorno, del dorso, cioè della Campania, del Corriere della Sera, e ti occupi tra l'altro di cronaca nera, quindi sono luoghi, situazioni e meccanismi che tu conosci bene. Sì, io mi sono occupato di cronaca nera per qualche anno e ho avuto modo, grazie a questo lavoro, di vedere le case di questi personaggi, magari, no? Gli immobili confiscati. All'indomani degli arresti noi abbiamo la fortuna, fra virgolette, dal punto di vista giornalistico, in questo caso narrativo, abbiamo la fortuna di poter visitare questi posti e quindi di renderci conto, di toccare con mano quelle che sono le vere passioni di questi personaggi. Allora ecco che vedi che nella casa confiscata al boss, non so, del clan dei casalesi o della camorra napoletana, eccetera, trovi il super mega peluche a grandezza stratosferica, la tenerezza del leone, del boss. Sì, nella tigre, oppure il poster del dollaro con la faccia di Scarface al centro, queste cose così, insomma, ti rendi conto che questi qui hanno veramente delle passioni che a volte sono imbarazzanti, sono kitsch. E c'è anche qualcosa di kitsch nel tuo romanzo, nel modo in cui racconti questi personaggi, perché sembrano veramente tirati fuori dalla fantasia, invece si capisce che c'è molto di vero in queste descrizioni. Partiamo appunto dallo zio, dal protagonista. Lui è un boss dei quartieri spagnoli con una passione del tutto particolare. Sì, ha una passione a livelli patologici per il Grande Fratello, che appunto mi sembrava, insomma, una passione un po' più naif che una persona potesse avere, quella per il Grande Fratello. E ha questa passione per il Grande Fratello ed è appassionato al punto tale che quando è costretto a darsi alla macchia, perché la polizia ha abbastanza elementi per arrestarlo, quindi va lì, e però non lo trova in casa perché lui riesce a scappare, quando è costretto a diventare latitante, lui anche da latitante, quando va in onda la puntata del Grande Fratello, lui cascasse il mondo, sta lì davanti alla TV a guardare il Grande Fratello perché non può farne a meno. Cioè non... E che poi spesso, insomma, i boss sono stati traditi da cose un po' banali, sì, sciocche, ridicole, sì, da sì, cose sì, ridicole. Accanto appunto a questo zio ci sono i cinque mostri di cui dicevamo prima, che sono i suoi fedelissimi. Tu li descrivi anche fisicamente brutti, insomma, come se ci fosse l'ombroso dietro tutto questo, insomma, il cattivo è anche brutto. Sì, il cattivo è abbrutito, Magari non è, magari è bellissimo alla nascita, però una vita fatta di crimini, di carcerazioni, di violenze, di prevaricazioni quotidiane, alla fine l'impressione che ho io è che arrivi a condizionare anche la nostra estetica, inevitabilmente. A me capita spesso di ricevere i comunicati, le informative, insomma, di polizia, dei carabinieri, e ci trovi in allegato la foto degli arrestati, le foto segnaletiche, eccetera. E ogni volta, anche se non devo scriverci niente, vado a guardarmi tutte le foto di questi personaggi perché mi piace, innanzitutto scoprirne le storie vere, e nel caso in cui io non abbia una storia vera da scoprire, mi piace inventarle, nella mia Guardando la mente, ovviamente, faccia, non sul insomma. No, giornale. certo. Insomma, guardo le foto e cerco di inventare una storia plausibile che possa stare dietro quella faccia. E poi c'è il personaggio veramente surreale, kitsch di questo romanzo, che è questo Anthony, un ragazzo che fa lo spacciatore, appunto assoldato dallo zio, e che viene in qualche modo costretto dai fedelissimi dello zio ad entrare nel Grande Fratello perché dovrà in qualche modo cercare di dare dei messaggi allo zio in fuga. E io ho trovato un personaggio straordinario. Lui si definisce Frizzantino e ha una Sì. particolarità, quello di avere le sopracciglia ad ali di gabbiano, però, come dire, un po'. Noi ridiamo perché sappiamo che cosa c'è nel libro, non vi possiamo raccontare tutto, ma vi assicuro che una delle scene più divertenti è quando questo ragazzo si chiude in bagno, la mamma pensa che lui si stia drogando e quindi dà un calcio alla porta e praticamente gli scappa il rasoio con cui lui si stava aggiustando le sopracciglia e diventa quasi un mostro. Insomma, Sì. questo Anthony entra nel Grande Fratello e che combina? Entra nel Grande Fratello e spariglia un po' le carte perché lui entra con una missione, cioè stavamo dicendo lo zio scappa via, non porta con sé i cellulari, non dà indicazioni sul posto in cui va a nascondersi, l'unico modo certo per contattarlo è infiltrare qualcuno nel cast del Grande Fratello. Prendono Anthony, questo pusher ustionato dalle lampade solari con le sopracciglia di gabbiano, eccetera, e lo addestrano, lo sottopongono a questo addestramento intensivo, questa vera e propria tortura. Lo rinchiudono in un seminterrato per insegnargli le canzoncine, i balletti più ridicoli che si possano insegnare, e lui alla fine riesce, un po' per fortuna e un po' grazie a questa tortura, ad entrare nel cast del Grande Fratello. Ma nel momento in cui entra nella casa del GF, avviene un cambiamento dentro di lui, c'è una parte di lui che si agita e che cerca di venire fuori in un modo diverso da quello che è sempre stato, e questo fa prendere alle cose una piega diversa da quella che ci si aspettava. E non diciamo altro perché, Eh no. insomma, non vogliamo rovinare il piacere della lettura. Uno dei commenti belli che ha avuto questo romanzo è arrivato niente poco di meno che da Roberto Saviano. Sì. Che cosa ha detto, che cosa ha scritto, anzi, su Facebook? Roberto è stato gentilissimo. Lui ha letto il libro, ha scritto all'editore per dire che gli era piaciuto. È stata una cosa molto naturale, per nulla forzata, questa qui della sua recensione. Ha scritto su Facebook che sostanzialmente lui ha scritto un pezzo abbastanza lungo. Ora, il senso era questo qui: che si può parlare della camorra andandola ad aggredire, andandola a danneggiare. Anche in questo modo qui, cioè utilizzando il linguaggio del grottesco e dell'irrisione, dell'umorismo, anche in questo modo qui si può parlare della camorra e le si può far male, la si può aggredire anche in questo modo qui. E parlare in questo modo qui, insomma, non significa non avvertire la drammaticità del fenomeno, no? A me è piaciuto molto il fatto che lui abbia apprezzato questo libro nonostante il linguaggio che ha utilizzato lui per Gomorra e quello che ho usato io per questo libro siano molto diversi fra loro, completamente diversi, però c'è una comunione di intenti alla fine. Insomma, non possiamo dire che una risata seppellirà la camorra, ma sicuramente può in qualche modo danneggiarla, come magari fanno tanti saggi e tante opere cosiddette serie. Grazie a Stefano Piedimonte, Grazie. autore nel nome dello zio, pubblicato da Guanda. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate su Facebook, se ci volete invece seguire su Twitter, Ale Teddina. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.